sutta sto cielo azzurro camminiamo ancora tra l'antichi strati Napoli e l'uventù d'estate con la chitarra a mano canto tuo nome d'amore come una nota vina che scivola tra licori. Se mi attivo l'avu sopra l'onda d'oro e sale vinti e sento fiato d'un vento che canta tra i timpani di li vecchi petri e mi ricorda che l'amore è più forte d'ogni catena e che siamo liberi, liberi tutta sto cielo azzurro insieme ancora tra l'antichi strati di Napoli e l'uvento d'estate con la chitarra a mano canto tuo nome d'amore e resto con te.